Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Buonasera a tutti, sono le 17.09, fra una manciata di secondi. Buonasera da Deborah Rosciani, che questa sera e domani sera sostituisce Sebastiano Barisoni, indegnamente, assolutamente, quindi mettiamo subito le mani avanti per gli ascoltatori che si lamenteranno per l'assenza, ma a parte gli scherzi, insomma, vi racconteremo anche questa sera quello che è successo oggi sul fronte economico-finanziario, una giornata molto interessante, tanto per cominciare dal punto di vista della borsa. Una giornata così brillante non la vedevamo da un bel po' di tempo. Il FTSE MIB si sta avvicinando alla chiusura della sua giornata con un rialzo del 3,47%, segue Parigi più 2,44%, Francoforte più 2,42%, Londra più modesta guadagna 1,5%, sono positive anche le borse, è positiva anche la borsa americana con il Dow Jones che segna più 1,28%, Nasdaq più 1,58%, molto bene oggi tutte le banche a Piazza Affari, e d'altronde essendo un listino quello italiano composto in prevalenza da titoli bancari, quando questi corrono chiaramente trainano al rialzo tutto il paniere. Le popolari vanno molto bene, ma vanno molto bene appunto tutti i titoli del settore. Guida con un rialzo a due cifre, la popolare dell'Emilia Romagna più 10%. Ne parleremo diffusamente, cercheremo di capire cosa c'è dietro questo rialzo molto consistente. Di sicuro c'è la restrizione dello spread, la restrizione del differenziale di rendimento fra titoli italiani e tedeschi sulla scadenza decennale, che questa mattina quest'oggi è arrivato sui 370 punti base, anche un po' sotto, e poi sicuramente pesano in positivo anche gli esiti di due aste di titoli di Stato in Spagna e in Grecia che si sono svolte oggi, sono molto ben riuscite. Addirittura in Grecia abbiamo visto un allentamento, una diminuzione dei rendimenti dei titoli collocati, mentre la domanda per i titoli spagnoli è stata molto alta, ma anche in questo caso per i titoli collocati, poi vi racconteremo le scadenze, i rendimenti sono tornati a crescere. Ci sono le nuove previsioni di crescita mondiale del Fondo Monetario Internazionale, ve le racconteremo nel corso della trasmissione. C'è l'approvazione da parte della Commissione Finanze e della Camera del decreto fiscale, che il cui testo passa l'esame di Montecitorio domani, e a questo punto c'è la definitiva rateizzazione dell'IMU, che potrà essere pagata in due o tre rate, naturalmente ci riferiamo a quella sulla prima casa, scelta del contribuente. Vi daremo poi i dettagli di questa scadenza, anche se sappiamo già quando dovranno avvenire i versamenti, a giugno, a settembre e a dicembre. C'è un comune in Italia che addirittura si è potuto permettere di non far pagare l'IMU ai suoi abitanti. È un comune che si trova in provincia di Sassari, si chiama Tula. Noi più tardi vi faremo ascoltare il sindaco Andrea Becca, che ci racconterà come mai ha potuto permettersi di dare questa facoltà ai cittadini contribuenti. Questi sono alcuni dei temi che tratteremo questa sera. Ovviamente nella seconda parte della trasmissione torneremo con un'iniziativa di un'organizzazione a fare il punto su questa drammatica situazione che si sta consumando nel nostro paese, che sta portando molti piccoli imprenditori addirittura a rinunciare alla propria vita, a suicidarsi. Come sapete, Radio 24 ha avviato una campagna molto importante per raccogliere le testimonianze drammatiche di queste persone che sono disperate, una iniziativa appunto che ha intrapreso Focus Economia insieme alla trasmissione di Oscar Giannino, 9 in punto la versione di Oscar, e stanno arrivando davvero tante testimonianze all'indirizzo di posta elettronica che è stato attivato appositamente per questo. Poi torneremo a ridarvene naturalmente tutti i dettagli per continuare a raccogliere le vostre testimonianze. Invece, per quello che riguarda i commenti alla giornata di oggi, come sempre potete scriverci al 349-238-6666. Adesso direi che possiamo cominciare anche con le notizie in breve. E allora, da che cosa cominciamo? Come sempre, dal monitoraggio delle quotazioni delle principali commodities delle quali ci occupiamo tutti i giorni, cioè come stanno andando oggi le quotazioni di oro e petrolio. Per quello che riguarda l'oro, abbiamo una quotazione in leggero calo rispetto alla chiusura di ieri, siamo a 1648,73 dollari l'oncia. Per quello che riguarda invece il petrolio, oggi l'apertura a New York è stata in rialzo a 104,03 dollari al barile. C'è una questione molto importante che si è verificata oggi in Argentina, non abbiamo tempo di approfondirla, ci riserviamo di farlo sicuramente nei prossimi giorni, perché che cosa è successo? Che a 17 anni dalla sua dismissione, dalla dismissione praticamente del ruolo di governo dalla compagnia petrolifera YPF, adesso non so bene in spagnolo come si pronunci il nome di questa società, che è comunque la più grande del paese, la più grande utility del paese, il governo argentino è tornato ad assumere il controllo con il commissariamento immediato di questa azienda e l'esproprio del 51% delle azioni della spagnola Repsol. Oggi c'è stata anche la presa di posizione del premier spagnolo Rajoy in visita in Sud America rispetto a questa situazione, ed è stato convocato dal governo anche l'ambasciatore argentino a Madrid. C'è stata anche una prima ritorsione europea contro questa decisione appunto dell'Argentina di espropriare le azioni della spagnola Repsol con il commissariamento della compagnia petrolifera YPF. La Commissione europea ha deciso di cancellare una riunione del comitato congiunto Unione Europea-Argentina che era in agenda appunto per oggi. Andiamo a vedere invece che cosa ha detto il Fondo Monetario Internazionale. Il Fondo Monetario Internazionale oggi ha rivisto a rialzo le stime della crescita mondiale per il 2012 e il 2013. Il PIL crescerà quest'anno del 3,5%, il prossimo anno del 4,1%, rispettivamente 0,2 e 0,1 punti percentuali in più rispetto alle stime che erano state diffuse a gennaio. Gli Stati Uniti più veloci di Eurolandia, l'economia americana crescerà quest'anno del 2,1% per poi accelerare l'anno prossimo al 2,4%, lo prevede sempre il Fondo Monetario, stimando invece per Eurolandia una contrazione del PIL dello 0,3% quest'anno. Il PIL dell'area euro crescerà dello 0,9% l'anno prossimo. E non sono molto buone invece le previsioni fatte per l'Italia, perché si stima che quest'anno l'economia italiana si contrarrà dell'1,9%, quindi in misura anche superiore rispetto al calo, alla contrazione del PIL previsto per esempio dalla Banca d'Italia, che stima almeno fino a questo momento un calo del PIL per quest'anno dell'1,5%, mentre nel 2013 l'economia italiana si contrarrà ancora dello 0,3%. Sono comunque state riviste a rialzo le precedenti previsioni di gennaio, per cui tutto sommato addirittura una buona notizia arriva. Allora, parlavamo prima delle aste di titoli di Stato organizzate oggi in Grecia e in Spagna. Cosa è successo in Grecia? La Grecia ha collocato titoli di Stato a tre mesi per 1 miliardo e 625 milioni di euro, con tassi in calo ai minimi da 11 mesi. Il rendimento per questi titoli appunto trimestrali è sceso al 4,2%, il livello più basso dal 17 maggio del 2011, quando si attestò il tasso appunto al di sopra del 4%. La domanda ha superato l'offerta di quasi 2,5 volte. Una nuova ricetta lacrime e sangue di 17 pagine per indicare al prossimo governo di Atene come e dove intervenire. Questo è il documento che domani a Strasburgo sarà varato ad appena 18 giorni dalle elezioni politiche greche dalla Commissione europea. C'è una bozza di comunicazione che l'agenzia ANSA oggi ha anticipato. In questa bozza di comunicazione Bruxelles indica quali riforme realizzare per l'economia, il lavoro, con un ulteriore taglio dei salari in Grecia del 15% in tre anni, tagli anche nuovi alla pubblica amministrazione e alla giustizia. Cosa è successo invece in Spagna? Anche la Spagna oggi ha registrato un esito positivo di un'asta di titoli di Stato piuttosto importante. I titoli venduti sono stati più del previsto, ma anche i tassi che si sono dovuti riconoscere agli investitori che hanno sottoscritto i bond spagnoli, appunto, sono stati più alti del previsto. Madrid ha collocato titoli annuali e a 18 mesi per 3,18 miliardi, superando il massimo prefissato di 3 miliardi di euro. Sulla scadenza a 12 mesi, il rendimento medio è salito al 2,62% dall'1,41% dell'asta del 20 marzo, mentre per la tranche a 18 mesi il tasso è salito al 3,11%, nell'ultima asta era stato dell'1,7%. Il ministro dell'Industria spagnola, in un'intervista radiofonica, ha detto che sarebbe auspicabile una politica della Banca Centrale Europea ancora più espansiva, in modo da accompagnare la fase di austerity intrapresa dalla Spagna, anche se invece da molte altre parti, come sapete, si ritiene che sia stata fin troppo espansiva la politica della BCE, non solo con i tassi piuttosto accomodanti, sono all'1% nell'Eurozona, ma anche e soprattutto con le aste di rifinanziamento del sistema bancario, appunto queste due importanti aste fatte a dicembre e a febbraio, con cui il sistema bancario europeo è stato inondato di liquidità con tassi bassissimi, invece la Spagna avrebbe bisogno di una politica ancor più accomodante. E a proposito di questo, il consigliere della Banca Centrale Europea Ordonez ha detto: un terzo maxi prestito anticrisi della Banca Centrale Europea, tutto è possibile, tuttavia appunto l'ipotesi di lanciare un terzo prestito non è sul tavolo in questo momento. Le dichiarazioni di Mario Monti, presidente del Consiglio italiano: oggi le tensioni delle ultime settimane mostrano che non dobbiamo abbassare la guardia, occorre continuare a lavorare per porre le finanze pubbliche su una base più sana e proseguire con le riforme. Oggi Monti ha incontrato il primo ministro della Repubblica di Finlandia, Katainen. Siamo d'accordo che il tallone d'Achille, lo avete sentito anche nel giornale radio dell'Europa, è la questione della crescita. Italia e Finlandia concordano sulla ricetta da seguire: riforme strutturali che diano maggiore flessibilità all'offerta e aumento della competitività. Oggi è stato diffuso il bollettino economico di Banca Italia. Per l'anno in corso, dice Via Nazionale, si prevede un ampio miglioramento dei conti pubblici, nonostante la caduta attesa del prodotto interno lordo. Banca d'Italia precisa anche che il rapporto fra debito e PIL dovrebbe cominciare a ridursi a partire dal prossimo anno. Quali altre indicazioni ha dato Via Nazionale? Per i primi mesi del 2012 l'andamento degli indicatori congiunturali prefigura un'ulteriore diminuzione dell'attività produttiva. Un'indagine condotta in marzo presso le imprese e gli indicatori ottenuti appunto dai sondaggi prefigurano, dice Banca Italia, un'attenuazione del peggioramento ciclico. Sono emerse valutazioni più favorevoli sugli ordini dall'estero. L'ultima notizia: oggi è stato diffuso il dato sull'andamento delle vendite dell'auto nel comparto del mercato europeo. Abbiamo avuto in marzo un nuovo calo del 6,6%. Per quello che riguarda il gruppo Fiat, in Europa il Lingotto ha immatricolato il 25,8% di auto in meno in marzo rispetto al mese precedente. E la quota di mercato in marzo è scesa al 5,4%. Direi che possiamo lasciare le notizie in breve, andiamo al primo approfondimento di oggi. Saverio Fossati mi guarda con uno sguardo interrogativo e dice: ma insomma, tutta questa musica non parti ancora. Saverio, buonasera. Buonasera a tutti. Quando c'è Saverio Fossati, sicuramente lo sanno molto bene gli ascoltatori affezionati a Salva Danaio. Noi parliamo abbastanza frequentemente di casa, per cui lo abbiamo interpellato per farci raccontare le novità intervenute tra ieri e oggi relativamente all'IMU, l'imposta municipale unica, che, lo ribadiamo ancora una volta, nel decreto Salva Italia sostanzialmente è stata reintrodotta in sostituzione della vecchia vecchia ICI che era stata cancellata appunto dai governi Berlusconi. Allora, le novità che abbiamo appreso oggi, tra l'altro la Commissione Finanze della Camera ha approvato il decreto fiscale all'interno del quale il provvedimento di rateizzazione dell'IMU è contenuto, appunto ha dato mandato al relatore Gianfranco Conte e il testo passa all'esame dell'Aula di Montecitorio appunto a partire da domani. Saverio, allora, visto che i contribuenti sono in attesa di capire in che modalità dovranno effettuare questo versamento, due o tre rate per quello che riguarda appunto la prima casa e due rate per quello che riguarda la seconda, e soprattutto dobbiamo ricordarlo, sono tutte facoltà per il contribuente. Sì, appunto, ecco, meglio chiarire che è una possibilità. Allora, la rateizzazione riguarda solo l'abitazione principale e le sue pertinenze, la rateizzazione in tre rate di pari importo, cioè un terzo ciascuno, mentre invece tutti gli altri fabbricati si pagano, come era stato stabilito, in due rate, una di acconto il 18 giugno e una di saldo il 17 dicembre. Le tre rate relative all'abitazione principale saranno molto spesso molto piccole, per questo ricordiamo che si tratta solo di una facoltà. Chi vuole pagare in due rate, cioè metà adesso, a metà dell'imposta teorica adesso il 18 giugno e il saldo il 17 dicembre, dopo che si saranno conosciute le aliquote decise dai diversi comuni, può benissimo farlo e si semplifica la vita, perché ripeto, in molti casi, una volta tolta la detrazione dei 200 euro, una volta tolte 50 euro per ogni figlio convivente fino a 26 anni di età, anche se non a carico, in molti casi rimarranno veramente poche decine di euro, quindi pagarne metà adesso e il saldo a dicembre è abbastanza razionale. Quindi soltanto chi ha delle case molto grandi e costose sarà interessato a questa faccenda della divisione in tre rate, che è una proposta che è stata puramente di carattere politico. Beh, diciamo che se fino a qualche tempo fa, fino ad ora, l'ICI non c'era, e quindi diciamo l'IMU, chiamiamola come vogliamo chiamarla, magari anche perché dovrà pagare un piccolo importo, forse Saverio, alla luce dei tanti sacrifici che abbiamo dovuto fare, dovremmo fare nei prossimi mesi, forse anche a quelle famiglie che avranno un importo, ribadisco, contenuto, potrà far comodo una rateizzazione. Il tema è che però la rateizzazione fa comodo ai contribuenti, ma soprattutto faceva comodo anche a quei comuni che devono ancora stabilire l'aliquota definitiva da versare, perché c'è questa facoltà. C'era la famosa questione che era stata sollevata dalla Consulta Nazionale dei CAF sull'aliquota appunto da versare. I comuni possono stabilirlo fino a fine giugno, se non mi ricordo male. Fino a fine settembre. E di fatto sarà fino a fine settembre. La rateizzazione in realtà per i comuni è un piccolo problema più che un vantaggio, perché non ha a che fare con l'aliquota, cioè l'aliquota entra in scena a dicembre, quando i contribuenti avranno finalmente a disposizione le aliquote comunali e rifaranno il calcolo e tireranno via tutto quanto pagato nella prima o nelle due rate precedenti e pagheranno a saldo. Per i comuni era un problema invece dividere tutto in tre rate, perché diminuivano i flussi di cassa. Il presidente dell'ANCI infatti lo aveva detto. Allora ci si è limitati a questa cosa un po' di bandiera dell'abitazione principale, che di fatto poi rappresenta una diminuzione del flusso di cassa abbastanza rilevante. Quindi, insomma, se dovessimo fare delle previsioni, a tuo avviso quanti contribuenti si avvarranno della facoltà della totale rateizzazione in tre? Non è diciamo, possibile. No, si può fare un conto molto concreto. Diciamo che allo stato dei fatti, chi ha una casa con una rendita catastale, diciamo, sui 700-800 euro, quindi un appartamento di una grande città in zona semicentrale, rispetto alla vecchia ICI precedentemente pagata, considerando che pagherà il 4 per 1000 comunque in questa prima rata, alla fine si tratterà di pagare appunto un 300-400 euro, quindi di cui appunto diciamo 200 euro potrebbe essere la prima rata se si divide in due. Mentre invece se si dividesse in tre rate sarebbe 133 euro e 133 euro. Non vedo questa grande differenza. Probabilmente saranno il 10, 15, 20% delle persone, non di più, credo che avranno reale necessità e opportunità di rateizzare. Comunque sia una possibilità in più e quindi, per carità, ben venga. Ma mi sa che alla botta c'erano tutti quelli che hanno una seconda casa. Certo, infatti, come è già stato detto più volte. Saverio, tu lo conosci il signor Andrea Becca? No. È il sindaco di Tula, che è un paese in provincia di Sassari, che di fatto ha cancellato l'IMU. Questa notizia tra l'altro è sul sito del Sole 24 Ore, perché questo sindaco è stato intercettato da un nostro collega che si chiama Vito Lopes, e naturalmente anche noi abbiamo approfittato di questa notizia per raggiungerlo telefonicamente per farci raccontare come mai le casse di questo paese si possono permettere di rinunciare a questo introito. Sindaco Becca, buonasera. Buonasera. Allora, 1600 abitanti nel suo paese mi hanno raccontato che peraltro Tula è il terzo comune italiano con il reddito più basso nel nostro paese. Non dispongo di questa informazione, ma non lo so, detta così mi sembra strano. Va bene, comunque non è quello... Non navighiamo nell'oro, ma non mi sembra neanche... No, anche, infatti, perché insomma ci ha stupito molto il fatto che lei sia riuscito a neutralizzare l'IMU, a cancellarla. Come se l'è potuto permettere, sindaco? Ma innanzitutto siamo sempre abbastanza oculati nel gestire il bilancio, sia i funzionari comunali che insomma che gli amministratori. Siamo persone semplici e quindi cerchiamo di fare sempre un passo alla volta. E in più, non lo nego, abbiamo la fortuna di avere nel nostro comune un impianto eolico costruito da una grossa società, insomma non voglio fare le pubblicità, che ci garantisce delle entrate importanti, oltre il 10% del bilancio complessivo del nostro paese, quindi ci dà un certo margine di manovra sia nelle politiche fiscali come in questo caso che più in generale nelle politiche soprattutto sociali o negli investimenti. Con questa rinuncia riuscite comunque a gestire bene il vostro bilancio? Leggo che rinunciate ad un'entrata di circa 50.000 euro, beh sicuramente sì, non è in termini assoluti, non sembra una grossa cifra. Però stiamo parlando sempre del bilancio di un comune di 1600 abitanti, per cui niente, una rinuncia importante, l'abbiamo fatta con grande consapevolezza. In questo momento cerchiamo di tutelare quanto più possibile i nostri cittadini, in particolare le fasce più anziane, che sarebbero quelle che non avrebbero potuto beneficiare delle detrazioni dei 50 euro per ciascun figlio sotto i 26 anni. Sindaco, io la ringrazio per averci raccontato l'esperienza di questo comune, chissà che qualche altra amministrazione comunale non la interpelli per così magari tramandare la sua esperienza, no? Come ha riuscito a gestire anche questo sacrificio in qualche maniera, ma magari non le conveniva in qualche maniera incassare qualche introito, non lo so, predisponendo per esempio l'aliquota minima. No, lei ha voluto invece fare anche questa operazione, insomma, di non voglio dire consenso fra i suoi cittadini. Abbiamo ridotto al 2 per 1000 l'aliquota e abbiamo aumentato la detrazione di base da 200 a 400, oltre ai 50 euro per ciascun figlio. Insomma, ci siamo fatti dei calcoli, non esiste nel nostro paese un'abitazione che abbia una rendita tale da come dire, essere poi soggetto passivo dell'imposta. Diciamo è una neutralizzazione che siamo riusciti ad ottenere con dei calcoli. Insomma, studiati proprio a tavolino. Ecco. Grazie ad Andrea Becca, sindaco di Tula, in provincia di Sassari. Saverio, che te ne pare? Secondo te qualche altro comune in Italia potrà permettersi di fare un'operazione di questo tipo? Sarà veramente un caso totalmente isolato? No, potrebbero. I comuni che sono molto piccoli, cioè hanno un territorio grande e sono piccolissimi in termini di abitanti, come appunto è quel caso, possono utilizzare il loro territorio in questo modo qua. Certamente... per esempio, non so, favorendo installazioni turistiche, oppure certo in Sardegna è noto che è quella prediletta a causa della grande ventosità da chi installa le pale eoliche. Le pale eoliche le mettono su un territorio enorme e quindi loro sono in un certo senso fortunati, anche se le trovano delle installazioni mostruose dal punto di vista paesaggistico, effettivamente possono garantire un introito. A Milano, per esempio, sai, siamo 1.300.000 abitanti in un territorio che non è un millesimo del territorio di Tula, ma sarà 4, 5, 6 volte quello di Tula. Di conseguenza è ovvio che per quante pale eoliche potessimo mettere Ce ne accorgeremo neanche in termini di gettito. Potrebbero per esempio incassare i soldi delle case comunali arretrate, ecco, questo sì, il comune potrebbe farlo se avesse voglia, ma naturalmente per ora non se ne parla, preferiscono mettere l'aliquota sulle seconde case al 9, 6, 10, 6 per 1000. Saverio, noi tra l'altro tra un po' dobbiamo fare la prima pausa, ma magari un minuto di tempo per raccontarci in maniera sintetica invece la riforma del catasto, come funzionerà, che tipo di impatto avrà, ce l'abbiamo. Allora, il catasto cambierà in modo radicale, verranno espressi due valori, mentre adesso c'è solamente la rendita catastale, verrà espresso una nuova rendita catastale calcolata secondo un altro sistema e un valore patrimoniale che rappresenta un po' la novità assoluta. Attualmente tutte le imposte sull'immobiliare sono calcolate partendo proprio dal dato della rendita catastale, quindi a che cosa serva questo futuro valore patrimoniale? È un po' un mistero, però abbiamo fatto due conti sulla base di un algoritmo sperimentale che era stato studiato una decina di anni fa dagli uffici del catasto, proprio in vista di questa riforma che è stata continuamente rimandata. Bene, applicando quel sistema, diciamo, salta fuori che per una casa in semicentro a Milano il valore catastale, il valore patrimoniale, pardon, dovrebbe essere di circa 148.000 euro, no? Non si tratta del valore di mercato, ma del valore di mercato cui vengono applicati degli algoritmi in base allo stato dell'edificio, alle qualità costruttive, eccetera. Cioè qualcosa di molto più vicino al vero valore, al valore che reale, non è quello di mercato, ma che ormai è letteralmente esploso prevale così nella per un valore comune. Patrimoniale di 148.000 euro, come tu dicevi, il valore di mercato potrebbe anche essere il triplo, oggi sì, dato la schizofrenia sul mercato immobiliare. Croce almeno 4 volte tanto, 5 volte tanto. Però il valore attuale di quello stesso immobile calcolato, no, con le rendite catastali e in base all'IMU, cioè il valore IMU, diciamo, di quell'immobile, in questo momento è all'incirca il 20-30% in meno. Mm. Quindi non si discosta tantissimo dal cosiddetto valore IMU, che è ancora basato sulla rendita catastale con un grande moltiplicatore, ma molto approssimativo. E una cosa è certa, che una volta che verrà individuato questo valore patrimoniale casa per casa, rappresenterà una base per altri tipi di imposte, non basati sulla redditività, ma proprio sul valore. Per quindi esempio, ecco, da una riforma di questo tipo lo Stato che cosa si aspetta? E molto probabilmente si aspetta, beh, intanto il mercato si aspetta più trasparenza, perché noi avremo un valore calcolato secondo un procedimento scientifico che tiene conto di molti fattori, che non è solamente lo sguardo distratto dell'agente immobiliare che dice ma sì, qui lo riusciamo a piazzare a X, no? Ma è secondo i procedimenti estimali che hanno una loro scientificità piuttosto precisa. Molti parrà ridicolo che una casa che finora valeva, si vende, diciamo, a, non so, 700.000 euro, da domani vale per lo Stato 150.000 euro. Va bene, d'accordo. Potranno esserci queste discrepanze così forti. Sì, potrebbero esserci, certo, ma il problema è che quello è un valore vero, cioè qualcosa su cui si potrebbe cominciare a riflettere anche in termini di mercato, cioè il valore delle cose non è dato solamente dal mercato, da quanto uno è disposto a pagare per quella cosa, ma anche in base al suo valore. E infatti ci sono le caratteristiche costruttive, per esempio, che non vengono praticamente mai prese in considerazione quando si valuta una casa ai fini del puro mercato. Torneremo a parlarne, Saverio, magari coinvolgendo anche gli operatori del settore immobiliare per sentire che cosa ne pensano e che tipo di impatto temono anche nella loro attività. Grazie per essere stato con noi, buonasera. Rapidamente la pubblicità, torniamo tra pochissimo per raccontarvi la giornata di borsa. Eccoci ritrovati in diretta a Focus Economia. Volevo segnalare a tutti gli ascoltatori, siete davvero in tanti che ci state chiedendo chiarimenti sull'IMU, le tre rate facoltative, naturalmente su come si calcola. Abbiamo fatto tante trasmissioni a Salvadanaio, a prescindere dalla rateizzazione la formula per il calcolo è sempre quella, c'è il 4 per 1000 appunto sul valore catastale, dovete prendere la rendita catastale, moltiplicarla per una serie di parametri e farvi il calcolo. Però siccome è un vero e proprio rompicapo l'IMU reintrodotta dal decreto Salva Italia, io vi anticipo che domani c'è uno speciale molto dettagliato sulle sole 24 ore e quindi potete già prendere a riferimento appunto le indicazioni che sono pubblicate domani sul quotidiano. Detto questo, adesso andiamo alla giornata di borsa. Paolo Paronetto, Radio Cuore, il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Si capisce perché quando io sono a Focus Economia faccio volare la borsa, rimanendo a Salvadanaio non provoco invece granché questo effetto, mi subisco l'otto volante dei mercati finanziari. Però oggi raccontiamo di una giornata che davvero non vedevamo da molto ed è peraltro anche molto difficile quantificare quanta capitalizzazione oggi sia stata creata, perché quando le borse perdono in questa misura si riesce a quantificare la capitalizzazione bruciata dei mercati. Gli ascoltatori si lamentano del fatto che invece non riusciamo mai a fare il calcolo al contrario. Non è che ti farò cimentare in questo, Paolo caro, ma ti chiedo solo come mai oggi Milano è riuscita a mettere a segno questo più 3,68% grazie ovviamente alle banche, ma tutto merito dello spread che si è ristretto. Come mai è tornato tutto questo ottimismo sui bancari italiani? Beh, guarda, oggi diciamo che appunto le borse, dopo una giornata così molto in chiaroscuro ieri e dopo soprattutto lo scivolone di venerdì, hanno approfittato di alcune indicazioni positive sul fronte macroeconomico per appunto riguadagnare parte del terreno perso. In particolare è stato l'esito dell'asta sui titoli di Stato spagnoli che era serenato i mercati, la domanda è stata molto alta, tanto che i titoli assegnati sono stati di più rispetto all'ammontare previsto dal governo di Madrid. Questo ovviamente ha serenato il clima, soprattutto appunto sul fronte della tenuta del debito pubblico spagnolo, e tutti i listini ne hanno approfittato, in particolare il settore bancario, che ha beneficiato anche della discesa dello spread. Quello italiano tra BTP e Bund è sceso a 372 punti base in chiusura, e quindi tutti i titoli bancari sono stati tra i migliori in tutta Europa. Inoltre l'indice tedesco ZEV sulla fiducia del settore finanziario, sull'andamento dell'economia, è stato migliore rispetto alle previsioni. Anche questo è servito a rasserenare un po' il clima. Allora, do qualche cifra per la Popolare dell'Emilia Romagna, chiusura con un rialzo di quasi l'11%, 10,98. Banco Popolare più 9,34. Mediabanca più 8,91. Popolare di Milano più 8,77. Intesa San Paolo più 8. Unicredit più 7,15. UbiBanca più 6,53, in pregiro più 6, Monte dei Paschi più 5,69, più 5,5 punti per Mediolanum e più 5,11% anche per Mediaset. Però vorrei adesso andare in pausa e raccontare, dopo i suggerimenti per chi è in viaggio, invece i motivi per cui, vabbè, fino a questa mattina Tenaris è arrivata a perdere 4,5 punti. Vi racconteremo perché la questione argentina che vi ho raccontato all'inizio oggi ha influito su Tenaris in questo modo. L'unico titolo che chiude in negativo è Diasori, nemmeno 0,37, fra un minuto. Paolo Paronetto per raccontare la giornata di borsa. Abbiamo 2 minuti, Paolo, quindi un minuto a tema. Come mai Tenaris, che peraltro stamattina era partita malissimo, meno 4,5 punti, in avvio poi ha recuperato più 1,70, la questione argentina Repsol IPF, appunto, come ha inciso sul gruppo? Esattamente, oggi ha pesato il rischio argentina su Tenaris e su altre società europee attive in Argentina, dopo appunto la decisione del governo di Buenos Aires di nazionalizzare IPF, controllato del gruppo spagnolo Repsol, che è la borsa di Madrid ha perso circa il 6%. Naturalmente diciamo che sono tutti abbastanza convinti che non ci saranno mosse analoghe su altre società, però diciamo che insomma un po' di rischio e un po' di speculazione su questo oggi è partita, e quindi le società attive soprattutto nel settore energetico in Argentina oggi ne hanno risentito. Infatti Tenaris ha fatto comunque peraltro dell'indice. Quali altre società italiane hanno interessi là? Telecom? Telecom, Enel, Fiat Industrial, Brembo, tutte le più grandi nostre praticamente, le principali industriali. Infatti se si alzasse un po' la cresta su questo argomento, l'Argentina ci mancherebbe pure che spalmasse altre iniziative del genere su altri gruppi. Detto questo, Galassia Ligresti oggi in completo fermento. Sì, esattamente, Fonsa ha guadagnato il 39%, Unipol il 24% circa, mentre Milano Assicurazione il 17%, ha fatto un po' meno prema fine ieri, è arrivato di fatto l'ok dei due CDA alla fusione tra i due gruppi, quindi si dovrebbe dar vita a questo nuovo grande gruppo assicurativo della fusione delle quattro società. E diciamo che alla fine Premafin è stata l'unica molto volatile, è partita male, poi ha guadagnato molto e ha chiuso di nuovo in calo, al meno 5,8%. Diciamo che i prezzi che sembrano, i primi dettagli indicano un prezzo per l'aumento di Premafin, un prezzo per azione fino a 0,195 euro, è una valorizzazione che è un prezzo che valorizza Fondiaria Sai, un prezzo di borsa molto superiore agli attuali costi di mercato, ed è per questo che Fondi Versailles ha guadagnato moltissimo terreno. Diciamo che poi un altro aspetto di cui invece getta un po' di incertezza è la richiesta della Procura di Milano di fallimento per Imco e Sinergia, che sono le due holding a monte rispetto a Premafin. Questo bisognava capire che impatti potrà avere sull'operazione. Diciamo che comunque oggi in borsa sono prevalsi gli acquisti visto il buon esito delle trattative tra i due gruppi. Che giungla finanziaria. Paolo, grazie per essere stato con noi, buona serata. Grazie a voi. Grazie, noi andiamo al nostro ultimo tema prima della nostra prima pausa. Allora, verrà aperto al pubblico a fine maggio un museo a Torino che sarà il Museo del Risparmio. Si tratta di un'iniziativa promossa da una grande banca, da Banca Intesa San Paolo, un progetto che nasce con l'obiettivo di aiutare la comunità tutta a riflettere sui temi di risparmio, ad acquisire anche i concetti di base per muoversi nel campo degli investimenti. E quindi un'altra iniziativa che va nella strada dell'educazione finanziaria che ormai sta interessando un po' tutti a molti livelli. Noi oggi nel pomeriggio abbiamo raggiunto Andrea Beltratti, presidente del Consiglio di Gestione di Intesa San Paolo, al quale abbiamo chiesto in maniera un po' provocatoria all'inizio: ma non è già abbastanza difficile fare banca, perché adesso una banca deve inventarsi di organizzare un museo? Sentiamo che cosa ci ha risposto. Si tratta di un'attività complementare. Intesa San Paolo ritiene che ci sia un grosso bisogno di migliorare la cultura finanziaria in Italia. Tutte le statistiche ci dicono che sia in Italia sia all'estero, ma certamente anche in Italia, il pubblico ha delle grosse difficoltà quando si tratta di trattare temi tecnici come il risparmio e la gestione delle attività finanziarie, e quindi pensiamo che da questo punto di vista un contributo possa essere interessante, e ci sembra un contributo originale e innovativo che si pone in maniera complementare alle altre iniziative che già sono esistenti in Italia. Che percorso avete allestito? Ci fa fare una visita virtuale? Com'è strutturato il percorso all'interno di questo museo? Sì, la visita virtuale è la seguente. Beh, innanzitutto notiamo, si tratta di un luogo fisico, e proprio per questo è innovativa e complementare ad altre iniziative che ci sono in Italia, che sono o esclusivamente via internet, oppure sono iniziative formative dove qualche formatore va nelle scuole a parlare con i ragazzi. Noi in questo caso invece apriamo un museo fisico dove lasciamo a tutte le persone che lo desiderano la possibilità di immergersi per qualche tempo nel mondo del risparmio e delle attività finanziarie. Sarà composto di 5 sale, ci sarà una sala storica iniziale dove daremo dei concetti di base storici sulla moneta, sul baratto, sulle attività finanziarie, poi una sala tematica dove daremo l'ABC di titoli finanziari e che cosa fanno intermediari finanziari, ci sarà poi una sala che combinerà letteratura e cinema, in cui noi immaginiamo di fare delle interviste impossibili a vari personaggi storici, in cui magari prendiamo delle ispezioni di film, in cui si parla di risparmio, di scelta finanziaria per far riflettere il visitatore sull'importanza di questi temi, e alla fine ci sarà una sala che chiamiamo sala attiva, dove ci saranno vari strumenti interattivi per esplorare meglio le cose. Importante notare è che ci sarà un percorso adatto a tutti, quindi non sarà soltanto un museo per bambini o per grandi, ci saranno dei percorsi formativi che stiamo valutando e su cui stiamo lavorando, che saranno dedicati sia ai bambini, sia agli adulti, sia ad altri, e sarà fatto in maniera molto divertente, devo dire. Ci saranno videogiochi, cose virtuali, sfrutteremo la tecnologia per avvicinare le persone al mondo del risparmio. Presidente, voi lo avete ricordato anche quest'oggi presentando l'iniziativa del museo, l'Italia è uno dei paesi che ha uno dei tassi di risparmio privati più elevati al mondo, eppure anche nel nostro paese le famiglie cominciano, per resistere alla crisi, a rintaccare tutto il risparmio accumulato negli anni passati. Verrebbe da dire che davvero il risparmio nel nostro paese sta diventando merce rara, articolo da museo? Beh, purtroppo indubbiamente abbiamo assistito ad una riduzione del tasso di risparmio, e quel che è peggio, abbiamo assistito ad una riduzione del numero di famiglie che sono in grado di risparmiare, che ormai sono arrivate a circa il 50%, e questa è una situazione molto negativa, perché tutti gli italiani continuano a pensare che il risparmio sia una virtù indispensabile, quindi non tradiamo le nostre radici. Nonostante tutto, questa è la situazione, è normale che in una fase di crisi si utilizzino le riserve per cercare di superarla. Possiamo augurarci che questa fase di crisi finisca presto per consentire a tutti gli italiani di nuovo di programmare nel medio lungo periodo e di riformare un tasso di risparmio. Il bollettino mensile della Banca d'Italia quest'oggi ha ribadito ancora come i prestiti alle famiglie e alle imprese siano in contrazione, quindi l'industria bancaria ancora continua ad essere tenuta sotto osservazione, perché si ritiene non faccia ancora il suo dovere per rimettere in pista l'economia. E allora, presidente Beltratti, perché una banca non fa il suo lavoro e invece di farlo si organizza e attrezza un museo? Beh, noi riteniamo di fare entrambe le cose, riteniamo di continuare a fare il nostro lavoro, e fra l'altro in una fase di crisi e di recessione è abbastanza normale che la domanda di prestiti bancari si riduca. Facciamo simultaneamente un'iniziativa di museo, perché pensiamo che sia importante continuare a guardare al futuro e quindi contribuire al tema dell'educazione finanziaria rientra fra i doveri di questa banca, del sistema bancario, e quindi nuove iniziative io credo sono senz'altro utili, perché saranno poi coordinate con le altre esistenti. Pensare anche a questo non vuol dire non fare il proprio lavoro, noi riteniamo di continuare a fare il nostro dovere. Molti imprenditori purtroppo non lo pensano, per cui mi raccomando, Presidente Beltratti, lo fa, fatelo questo lavoro, continuate ad erogare credito alle imprese per fare in modo che noi non dobbiamo più parlare di questa iniziativa, invece della quale dobbiamo parlare ancora a lungo, di questi imprenditori che continuano a voler rinunciare alla propria vita perché non ce la fanno più resistere di fronte alla crisi. Detto questo, noi di questo parleremo nella seconda parte del programma, adesso linea al GR, a tra poco. Eccoci ritrovati in diretta, ancora buonasera da Deborah Rosciani e benvenuti a Focus Economia, l'ultima parte della nostra trasmissione dedicata al racconto della giornata economico-finanziaria. Saluto con molto affetto tutti quegli ascoltatori che mi aiutano nelle pronunce delle parole che non conosco. Nella fattispecie, in questo caso, parliamo della società argentina dalla quale parliamo prima, appunto la società, la compagnia petrolifera YPF. Mi segnala un'ascoltatrice di origini argentine, questa società appunto che oggi è stata espropriata dal suo controllo dagli spagnoli di Repsol, e con questa manovra che farà sicuramente molto discutere. Detto questo, il tema era come pronunciare YPF, che è il nome della società, per dirla senza offendere gli argentini all'ascolto. YPF. Grazie Elsie che ci scrive. Noi invece andiamo all'altro breve argomento del nostro primo approfondimento di questa seconda parte. Parliamo del Salone del Mobile. E allora, ne abbiamo parlato questa mattina anche a Salvadanaio, cercando di capire le scelte di investimento nell'arredamento che le famiglie sono in grado di fare con i bilanci familiari sempre più strette. E perché ne abbiamo sempre più stretti? Perché ne abbiamo parlato oggi? Perché il design è sbarcato a Milano e oggi è iniziato il Salone Internazionale delle Mobile. Pensate, una kermesse, una vetrina dell'arredo italiano che compie 51 anni e che continua a crescere. Numeri record quelli che sono stati registrati in questa prima giornata, peraltro ancora aperta solo agli operatori del settore, perché poi l'apertura al pubblico sarà nel weekend. Numeri record, come ha affermato Carlo Guglielmi, il presidente della società organizzatrice della manifestazione, la COSMIT, che realizziamo, dice, senza chiedere aiuti a nessuno. Ascoltiamolo al microfono di Irene Privitera. Ci siamo superati perché in un momento di difficoltà e di crisi economica generalizzata come questo abbiamo organizzato un salone che comprende tutta la superficie espositiva di Pero Ro, addirittura non basta perché abbiamo una lista d'attesa. Abbiamo 2700 espositori, abbiamo 6000 giornalisti che arrivano da tutte le parti del mondo, abbiamo in previsione visite per 330.000 visitatori. Quindi sono dati in assoluto enormi, dati quasi record, che in un momento così difficile indicano una controtendenza. Questo è merito del sistema che abbiamo alle spalle, di Federazione, Federlegno Arredo, del Presidente Snaidero, ed è merito soprattutto degli associati che hanno investito tanto, credono tanto nel loro lavoro e con passione, con determinazione, loro e le loro maestranze hanno portato al Salone 21.000 prodotti nuovi. Anche questo un altro record. Certamente ci sono una contrazione dei consumi all'interno del nostro paese, mentre invece l'esportazione funziona bene e ci sono dei paesi emergenti che guardano l'Italia e la nostra produzione con un interesse straordinario. Sappiamo della visita di 10.000 brasiliani durante questo salone prevista nei prossimi giorni e questa ne è la dimostrazione. Poi per il prossimo salone abbiamo davvero molte idee a supporto del nostro sistema, ma soprattutto a supporto dell'immagine della nostra città e del nostro paese. Tra l'altro queste sono delle giornate a Milano in occasione delle quali, proprio grazie al Salone del Mobile, ci sono tante iniziative collaterali, le cosiddette iniziative del Fuori Salone, il Fuori Salone che accompagna come sempre la rassegna, e quindi si colorano le strade con decine di eventi, di mostre, di incontri, quindi una vitalità davvero incredibile grazie a questo settore. Detto questo, oggi anche il presidente della Consob, Giuseppe Vegas, la Consob è l'autorità di controllo sui mercati finanziari, è intervenuto appunto visitando il Salone del Mobile e Vegas ha detto, chiaramente rispondendo ad una domanda di un giornalista, che per risolvere il problema del finanziamento alle imprese bisogna fare in modo che il risparmio degli italiani vada all'economia reale, quello per cui stiamo lavorando tutti. Sentiamo anche Vegas al microfono sempre della nostra Irene Privitera. C'è un problema di finanziamenti soprattutto per conquistare i mercati emergenti dove sono richiesti dimensioni pensioni molto più elevate. Io credo che è essenziale trovare gli strumenti, e questo si potrà fare sicuramente, trovare gli strumenti per far sì che il risparmio degli italiani vada all'economia reale. È quello per cui stiamo lavorando tutti, è la scommessa dei prossimi anni. E non è pensabile che le imprese possano crescere ormai solo col credito bancario, perché le banche hanno difficoltà, è la situazione nota, bisogna fare in modo che il risparmio vada direttamente alle imprese, questo si fa con la finanza. Eh sì, questo si fa con la finanza, si fa soprattutto con le banche, che questo transito dovrebbero permetterlo. Noi adesso con il Salone del Mobile ci fermiamo, andiamo invece ad affrontare gli scenari economici ancora più grandi, gli scenari economici internazionali, con le nuove stime rilasciate oggi da Washington, dal Fondo Monetario Internazionale. Alessandro Merli, inviato delle Sole 24 Ore a Washington, buonasera. Sì, buonasera a voi. Perlomeno sei ancora lì, sì. Certo che sono. Tra l'altro volevo segnalare ancora agli ascoltatori che l'avessero persa questa mattina, che insieme a Mario Platero, Alessandro Merli, l'autore di una lunga intervista a Christine Lagarde, il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, che ha parlato anche dell'Italia applaudendo la riforma del lavoro condotta da questo governo. Bene la riforma del lavoro, titola il pezzo, se l'Italia manterrà l'obiettivo di eliminare il dualismo, importante che nell'iter parlamentare siano eliminate le incertezze per le imprese. Ma prima di ritornare magari a segnalare i passi centrali dell'intervista a Madame Lagarde, direi, Alessandro, di fare invece il punto sui nuovi dati diramati oggi dal Fondo Monetario Internazionale, che ha rivisto le stime di crescita di tutto il mondo, e per molti aspetti sono dati migliori delle stime invece rilasciate lo scorso gennaio. Non tutte positive le indicazioni fornite sull'Italia, ma per quello che riguarda la crescita globale avremo un più 3,5% complessivamente nel 2012. Ci si può accontentare o no? Sono cifre, come hai detto, leggermente migliori di quelle di gennaio, ma sono peggiori di quelle di settembre, quindi il miglioramento, diciamo, è molto relativo. Su questa cifra del 3,5% pesa una crescita nei paesi avanzati, grandi paesi industriali, che è molto deficitaria, molto bassa, come ha detto il capo economista del fondo Olivier Blanchard, e all'interno dei paesi avanzati naturalmente pesa la situazione dell'area dell'euro, che, come ci ha detto ieri la signora Lagarde, resta un po' l'anello debole dell'economia mondiale. Ci sono ancora molti molti rischi, ha ripetuto oggi Blanchard, e quindi chiaramente la situazione in Europa è sotto i riflettori del Fondo Monetario, il quale Fondo Monetario diciamo un po' contro natura, visto sempre come il guardiano del rigore fiscale, invece dice attenzione a tutto questo aggiustamento dei conti, a questa austerità, va fatta perché i mercati mettono pressione, però è anche importante farla al passo giusto, in modo da non uccidere quel poco, in alcuni casi quel pochissimo, di crescita che c'è. Ecco, il Fondo Monetario segnala anche come gli Stati Uniti, invece, come abbiamo visto anche da molti dati economici recenti, abbiano ripreso a marciare in maniera piuttosto consistente. Noi dagli Stati Uniti ripartiamo dopo i suggerimenti per chi è in viaggio. Eccoci ritrovati in diretta e stavamo raccontando con Alessandro Merli, inviato del Sole 24 Ore, le nuove stime sulla crescita mondiale rilasciate oggi dal Fondo Monetario Internazionale, che naturalmente sono cifre che riconoscono le difficoltà della zona euro, non ce le stiamo neanche a raccontare e a ribadire, e questa nuova rassegna appunto dell'FMI riconosce anche di come gli Stati Uniti, e anche questo lo stiamo vedendo già da molti dati che sono diffusi da qualche tempo, di come gli Stati Uniti abbiano ripreso a marciare, anche se c'è sempre lì la preoccupazione, Alessandro, della disoccupazione, che anche in marzo, l'abbiamo visto appunto nei giorni scorsi, aveva creato meno posti di lavoro del previsto, però insomma là c'è più ottimismo rispetto ad Eurolandia. Beh, quello che dice il fondo è proprio questo, cioè c'è un po' di ripresa negli Stati Uniti sia per quest'anno che per l'anno prossimo, la previsione di una crescita sopra il 2%, quasi il 2,5% nel 2013, però non è una crescita sufficiente a ridurre in modo significativo la disoccupazione, quindi resta una situazione abbastanza bloccata. Poi gli altri problemi che gli Stati Uniti ancora in eredità dalla crisi finanziaria del 2007, 2008, 2009 sono una situazione delle famiglie

ha tentato il suicidio e non gli è riuscito, per fortuna in questo senso, perché è salito sulla sua barca, ha preso una corda, l'ha annodata attorno all'arco e ha tentato di farla finita, ma la piccola tettoia che copre la poppa ha lasciato intravedere ad altri pescatori quello che stava accadendo, così i suoi colleghi sono intervenuti e l'hanno salvato. E è accaduto sui lidi di Comacchio, in provincia di Ferrara, a Porto Garibaldi. E il protagonista di questa vicenda era un pescatore, è un pescatore proprietario di un piccolo peschereccio che da mesi non riusciva più a guadagnare il necessario per mantenere la famiglia, pagare il carburante e le bollette, si è ritrovato sommerso dai debiti. I colleghi, sentite questa, oltre a salvarlo sono intervenuti anche economicamente, riuscendo a mettere insieme 10.000 euro. Qui non stiamo parlando di milioni di euro o di chissà quali cifre, 10.000 euro per permettergli di pagare i debiti più urgenti. Io saluto e ringrazio per essere con noi questa sera Fabio Piacenti, presidente di EURES, l'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali. Presidente, buonasera. Buonasera a voi. Voi state, come noi e come tante altre organizzazioni, in questo periodo conducendo questo monitoraggio costante, questo nuovo mondo di disagio che ci sta esplodendo tra le mani, Presidente. Voi che cosa avete scoperto con la vostra esplorazione in questo mondo del disagio, nel mondo del lavoro appunto, che porta molti padri di famiglia addirittura a rinunciare alle gioie familiari, a volersi suicidare perché gli impegni economici sono diventati troppo gravosi? Che cosa sta succedendo nel nostro paese, Presidente? Intanto davvero la ringrazio per diciamo, poter condividere con altri una battaglia che è culturale sotto diciamo, un altro punto di vista. Quello che sta succedendo è che noi abbiamo rilevato in una prima indagine diffusa circa un anno fa, ma che ahimè non ha ricevuto la stessa attenzione di quella attuale, che in presenza della crisi economica stavano non soltanto aumentando i suicidi nel loro complesso, fenomeno che può essere eventualmente attribuito a una serie di concause molto numerose, parliamo di un fenomeno comunque che non può essere attribuito ad un'unica esclusiva causa, ma che al tempo stesso diciamo, questo fenomeno aumentava all'interno di alcune particolari categorie, e qui è nato diciamo, il livello di attenzione. E queste categorie erano in particolare due, quella dei disoccupati, e considerate che nel biennio 2009-2010 noi contiamo oltre un suicidio al giorno da parte di un disoccupato, e parliamo soprattutto nell'80% dei casi di persone che hanno perduto il lavoro, quindi persone espulse dal mercato del lavoro. Al tempo stesso abbiamo rilevato dei dati molto alti, peraltro sono dati inediti che abbiamo diffuso oggi, per quanto riguarda i suicidi degli imprenditori, dei liberi professionisti e nel complesso del lavoro autonomo. Quindi un fenomeno in forte crescita, concentrato in alcuni segmenti del corpo sociale, e che certamente diciamo, ha avuto questa crescita proprio perché all'interno di un ragionamento complessivo, un lavoro diciamo così complessivo di risanamento del paese, questi casi sono stati considerati secondo noi più un effetto collaterale del risanamento che non la priorità, e il nostro lavoro di ricerca ha voluto sostanzialmente dire attenzione, questa è la priorità, non è un effetto collaterale, e in questa direzione abbiamo continuato a studiare e diciamo come istituto, come associazione, a sostenere culturalmente diciamo, questa battaglia, che è una battaglia di Presidente, una battaglia molto importante. Io ho terminato il tempo a mia disposizione, lei ce la fa domani sera a quest'ora ad essere di nuovo con noi, così riesco a darle più spazio, e raccontiamo anche del fatto che questa crisi pesa, il rischio suicidio è sempre più in agguato nella fascia dei cosiddetti esodati, dei quali parliamo tanto, va bene? La posso prendere questo appuntamento? A domani sera allora, grazie Presidente. Ce la facciamo a mandare l'appello di Sebastiano Barisoni al governo? Sentite. Ai partiti che a fine luglio riceveranno quasi 170 milioni di euro di rimborsi elettorali, perché non li devolvete ad un fondo per i piccoli imprenditori in difficoltà? Aiutereste loro e i loro dipendenti, tornereste vicini ai vostri elettori. E intanto continuate a scriverci, disperati mai, @radio24.it. Da Deborah Rosciani, buona serata a tutti, a domani. Radio 24. La passione si sente.